Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. All'ultimo significa che mi riduco a fare il mio curriculum in inglese martedì stesso, un'ora prima dell'appuntamento. Alla fine traduco con Google e poi faccio un paio di ricerche, giusto per capire se le qualifiche che ho inserito hanno senso nel mercato del lavoro o sono traduzioni maccheroniche. Forse non avranno un assaggio del mio English, ma della mia capacità di navigare, sì. Ok, mi agito, stampo e parto. Sono già in ritardo di 5 minuti. Mi chiamo Laura Sponsilli, ho 31 anni, vivo a Modena, ho una bimba di 2 anni, convivo e sono disoccupata. No, no, aspetta un secondo Paolino, fermati un secondo perché mi è sfuggito qualcosa, ti ringrazio. Mi fai ripartire la sigla un attimo? Gli è successo qualcosa? A lui dico, a Owen Pallet. Perché tutti ci scrivevano di chi è sta sigla e Tiziano Bonini ricordava ogni volta che questo tizio si chiamava, forse quando, parlandone da vivo, lui si chiamava Owen Pallet e il brano si chiamava Scandal at the Parkade, giusto? Vedi, ora che l'ho imparato il titolo, gli è successo qualcosa. O ha mangiato molto molto pesante durante queste festività, oppure gli è sfuggito l'archetto dalle mani mentre suonava il violino. Sì, ma deve essere successo anche qualcos'altro. Comunque, nella speranza che si riprenda, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. Allora, oggi la storia di Laura è una storia che parla di colloqui di lavoro. Parla di colloqui di lavoro, però quello che ci racconta è ben di più, perché Laura in questo suo racconto, che è quello che vi chiedo di fare semplicemente, di prendere un frammento della vostra vita e di raccontarci una storia intorno, una storia di una pagina, non di più. A questo proposito me lo chiede Margherita, sono arrivati, abbiamo fatto un controllo veloce perché settimana scorsa non l'avevamo ancora fatto, invece in questo fine settimana abbiamo fatto un controllo veloce di tutti i racconti che sono arrivati in queste vacanze natalizie e sono veramente tantissimi. Voi siete qui, @radio24.it. So che si dice sempre così, ma è vero. La cosa invece che è vera, purtroppo, è che sono un po' lunghi, amici miei. Ho detto amici miei, sembravo Parenzo. Che ci servono racconti di una pagina, non di più, perché se arrivano racconti di 20 pagine è proprio un problema. È un problema perché noi non riusciamo a leggerli tutti ed è un problema perché abbiamo la sensazione che voi abbiate preso il raccontino che avevate nel cassetto, quello che avete mandato a 2 o 3 concorsi letterari e abbiate detto, vabbè dai, mandiamoglieli a questi che ci chiedono sti racconti. Ecco, no. No, perché non è un concorso letterario e no, perché ci mettiamo, siccome siamo dei segugi da questa intervista, dopo aver letto 500, ci mettiamo 2 secondi a capire che è successa quella roba lì. La cosa che ci interessa è un'altra, un racconto di una pagina che racconti un episodio della vostra vita, che in qualche modo racconta di voi. Voi siete qui, @radio24.it. È quello che ha fatto Laura, che ci racconta, come vi dicevo, un episodio della sua vita che è un colloquio di lavoro. Ma la cosa interessante è che lei, inconsapevolmente credo, trova un metodo per uscirne vincente dal colloquio di lavoro e poi ci ha raccontato anche da altri. È come se lei avesse trovato dei piccoli trucchetti per sopravvivere ai colloqui di lavoro. E la puntata di oggi è dedicata a quella, tutti i trucchi che voi avete trovato per sopravvivere a qualsiasi situazione in cui vi troviate, che sia di lavoro, che sia di famiglia, qualunque essa sia. Sì, perché ogni cosa, no? Ha dei piccoli accorgimenti che ti aiutano a vivere meglio in tutti i settori del vivere. La famiglia, il lavoro, appunto le vacanze, l'amicizia. Anche la casa, ad esempio, ha delle piccole invisibili regole che devi seguire per viverci. Altrimenti rischi di non riuscire proprio a starci. Se non fai quello che lei vuole che tu faccia, rischia di ribellartisi contro. Ci sono piccole stupide cose che se non le conosci e non le assecondi, ecco, stare in quella casa può diventare un inferno. Vi faccio un esempio. A casa mia, se va in stallo la caldaia, bisogna girare la manopola sul simbolo del termosifone, poi su quello del rubinetto, poi di nuovo sul termosifone, e a quel punto parte. Bisogna fare attenzione a quando si tirano le tapparelle, non arrivare fino in fondo, perché sono saltati i fermi e si rischia che la tapparella si infili tutta nel cassone e non la tiri più fuori. Poi la lavatrice, la finestra che dà sul cortile e la luce sul ballatoio. Ecco cos'è, è che ogni tanto io ho la sensazione di non conoscere tutti i trucchi della vita. Sapete che si dice anche quello la sa lunga, no? Ecco, credo di aver capito che cosa si intende quando si dice saperla lunga. Significa proprio conoscere quei piccoli trucchi che ti rendono la vita più facile. Un po' come sapere fare ripartire la caldaia o accendere il gas. Ecco, ci sono alcune persone che hanno proprio l'aria di chi quei trucchi li conosce. Altri invece che di fronte a quei piccoli ostacoli sono sconfitti. Oggi vorrei conoscere tutte le regole di sopravvivenza che avete sperimentato da quando siete nati a oggi. E vale tutto, eh? Lavoro, città, coppia, figli, vacanze, qualsiasi sia il campo in cui siete diventati gli esperti di sopravvivenza. 349-238-6666. Oppure voi siete qui, @radio24.it. Vi faccio un esempio di questi piccoli trucchi, me li hanno già scritti sul profilo Facebook del programma. Arianna, per quanto riguarda i figli adolescenti, quando il gioco si fa duro, il duro è continuare ad andare avanti, scrive Arianna. Giuliana, per quanto riguarda la famiglia, il segreto è non aspettarsi mai troppo. E poi ancora Esther, sul lavoro, il mio motto è think for yourself and fuck the rest. Vivo molto meglio, scrive Esther. E poi ancora Antonio, piccolissima pillola per le vacanze. Se siete in vacanza e per autostrade, evitate gli autogrill per mangiare. Spese assurde, più alte di una buona trattoria che potete trovare uscendo al primo casello utile. Ecco, insomma, piccoli consigli per sopravvivere. Magari anche d'altro tipo, vale tutto, ripeto. Valgono anche piccole cose esistenziali. Oggi valgono. Non so perché, ma oggi sì. 349-238-6666. Oppure voi siete qui, @radio24.it. Questa invece è la storia di Laura. Sono alla prima selezione per un posto da addetta all'ufficio personale nella filiale italiana di una famosa multinazionale. Al termine del colloquio, l'addetta alla selezione mi butta lì un "E con l'inglese come va?". Con una certa nonchalance rispondo "Beh, l'ho studiato a scuola, certo". Ecco, in verità il mio livello di inglese è livello survivor. Vuol dire letteralmente superstite. Vuol dire che per farmi capire devo fare molti gesti quando parlo. A volte riesco a formulare la domanda, in genere però non capisco la risposta. La ragazza comunque mi guarda e mi dice "Allora ok, ci vediamo presto". Dopo qualche giorno la stessa ragazza mi chiama e mi chiede se sono pronta per un nuovo colloquio, questa volta direttamente in azienda. Ovviamente mi dico entusiasta e lei dal nulla "Perfetto, ci vediamo martedì alle 17, portati un curriculum in inglese". Come in inglese, penso. Intanto un brivido mi corre lungo la schiena, ma quel che mi esce dalla bocca ovviamente è "Non c'è problema, a martedì". Io mi occupavo di amministrazione del personale in una cooperativa già da qualche anno e il lavoro era una cosa molto simile, perché l'amministrazione del personale in un'azienda, però era una multinazionale del Sud Carolina, scoperto. L'inglese l'ho studiato a scuola, al liceo, ho fatto Shakespeare, ho fatto come si chiede, cosa hai fatto nel tempo libero, quelle cose lì, in poi non l'ho più usato. Passo il weekend pensando che mi devo alzare, mettermi al computer e risolvere la questione. Certo, potrei cavarmela con il traduttore automatico di Google, oppure potrei veramente mettermici e tentare di tradurlo io, tanto per vedere a che livello sono realmente. Al limite potrei copiarne un paio di quelli che ci sono in ufficio. Ma alla fine vince l'onestà. Io voglio sapere com'è il mio inglese. E anche loro. Loro vogliono sapere com'è? Perfetto. Ne avranno un assaggio genuino. Come era prevedibile, mi riduco all'ultimo. Molto all'ultimo. All'ultimo significa che mi riduco a fare il mio curriculum in inglese martedì stesso, un'ora prima dell'appuntamento. Alla fine traduco con Google e poi faccio un paio di ricerche con Job Rapido UK. Giusto per capire se le qualifiche che ho inserito hanno senso nel mercato del lavoro o sono traduzioni maccheroniche. Ecco, forse non avranno un assaggio del mio English, ma della mia capacità di navigare quella sì. Perfetto, mi agito, stampo e parto. Sono già in ritardo di 5 minuti. Per me era una bellissima occasione, perché era un lavoro, il lavoro lo conoscevo già, il tipo di lavoro che facevo già, per una ditta molto più grande, più strutturata, con possibilità di crescita, e in più dove mi trovavo in quel momento stavo molto molto male, tanto che alla fine mi sono licenziata io perché non, così non andava bene, insomma. Corro in tangenziale, corro in autostrada, non so bene la strada ma tanto al navigatore. E dopo poco infatti lui mi dice "Arrivata a destinazione, girare a sinistra". Guardo a sinistra e quello che vedo è campagna e campi, a perdita d'occhio. Provo a infilare una stradina laterale ma finisco nel cortile di una casa. Provo ancora un'altra stradina. Vado avanti fino ad arrivare in un campo nomadi, dove ci sono dei ragazzi impegnati in una partita di calcio tra le roulotte. Allora, quasi disperata, chiedo l'aiuto da casa. Per fortuna che è a casa aveva guardato il sito dell'azienda con me il giorno prima. Per fortuna che è a casa si ricorda il nome dell'azienda e trova l'indirizzo. Il civico è il 111 e non il 130. Alla fine arrivo, anche se con 25 minuti di ritardo. Dopo un minuto di attesa mi viene a cercare la responsabile delle risorse umane. Si presenta, non ascolta nemmeno le mie scuse e poi mi dice: come te la cavi a parlare in inglese? Rispondo con una smorfia non proprio bellissima, ma ormai non c'è più tempo e la ragazza mi trascina con sé. Entriamo in una sala riunione di quelle tutte serie, con tavolone al centro e una decina di sedie tutte intorno. Dentro, seduta, c'è una signora molto elegante. Mi sorride e mi dice: Hi, I'm René. Nice to meet you. Tutto quello che sono riuscito a pensare è stato: adesso mi giro, prendo la porta e scappo. E invece non sono scappata. Con la scusa che sono un po' shy e un po' arrugginita con l'English, il mio colloquio è stato interamente tradotto dall'addetta delle risorse umane. Mi faranno sapere, mi dice. Secondo voi, cosa faccio? Ci posso sperare? Quando fa molto freddo, io devo dare almeno un minuto di gas da fermo prima di inserire la marcia e mettermi in moto. Se non lo faccio, la macchina mi si ferma sicuramente 4 metri dopo e poi per riaccenderla sono veramente dei problemi. Se a un certo punto non si sente più della cassa sinistra in auto sullo stereo, devo prendere il cavetto che collega l'iPod all'autoradio tra pollice e indice e girarlo lentamente verso sinistra facendo un mezzo cerchio. In quel modo scatta uno strano contatto e si sente. Altrimenti si riesce a sentire solo il canale destro e a quel punto fa schifo tutto, anche il miglior disco dei Radiohead. Ecco, d'estate invece, non so assolutamente per quale motivo, la batteria dell'auto fa molta fatica. Una volta mi si è spenta la macchina in mezzo alla tangenziale, praticamente di colpo. Da allora giro sempre con i cavetti elettrici, quelli rossi e neri, quello positivo e negativo, che devi stare molto attento a come li metti, sennò bruci tutto. La mia macchina è mia e io ovviamente so tutti i trucchi per guidarla. Se dovessi prestarvela, probabilmente vi fermereste disperati dopo meno di 30 km. Ogni oggetto ha una sua storia personale e ovviamente ogni oggetto ha i suoi segreti e tutti i suoi piccoli trucchi. Ed è qui che c'è la differenza sostanziale. Se una persona conosce bene tutti i trucchi del mestiere, le cose andranno quasi sempre nel verso giusto. Ovviamente, se invece quei trucchi non si conoscono, le cose andranno quasi sicuramente male. Non è solo una questione di abilità. Il mio amico Fernando, ad esempio, al volante è un califfo, ma con la macchina farebbe una figuraccia. Con la mia macchina, ovviamente. E questo esempio della mia macchina è chiaro, però questa cosa dei trucchi la si può applicare con un po' di fantasia più o meno a tutto. Laura, ad esempio, conosce un paio di trucchi per far funzionare al meglio i colloqui di lavoro. Anche quando tutto sembra andare al peggio delle possibilità, lei reagisce in modo corretto. E attenzione, perché non si tratta di barare, eh? Certo, lei l'inglese non lo conosce perfettamente, ha fatto finta di sì, ma non è questo il punto. Sì, si è persa e si è presentata con quasi mezz'ora di ritardo al colloquio, pure questo. Se non fosse stato per l'amico a casa, sarebbe ancora lì in mezzo alla campagna. E se non fosse stato per l'addetta delle risorse umane che si è messa a tradurre, le cose sarebbero andate diversamente. Ma non è neanche questo il punto. Laura ha dalla sua qualche asso nella manica. Lei, ad esempio, sa che per far funzionare bene un colloquio servono due o tre cose essenziali. Bisogna essere pronti a tutto, sapersi vendere al meglio delle proprie possibilità e non farsi mai prendere dallo sconforto. E già che ci siamo, ci aggiungo anche che è utile avere un sorriso di riserva da sfoggiare nei momenti più difficili. Perché c'è poco da fare. Là fuori il mondo spesso è un delirio e ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto, è lecito giocare un po' sporco. È semplicemente un trucco. Un trucco come un altro. I had a dream today, somewhere I've never been before. questa è una delle cose che mi piacciono di certe persone, no? Come vi dicevo, ed è uno dei motivi per cui Laura già mi piace, è perché conosce dei piccoli trucchi per far andare bene le cose, o quantomeno per sopravvivere, no? Cioè lei di fatto con il suo racconto, anche se non so se l'ha fatto consapevolmente oppure no, ha stilato un breve manuale per la sopravvivenza ai colloqui di lavoro. Pronto Laura? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Ma sei all'aperto, Laura? Sono per strada. Sento del vento. Sì, vento, a Modena vento una parolona, comunque sì, sono per strada. Sei per strada a Modena perché stai andando? A prendere mia figlia all'asilo nido. Benissimo, era giusto per farmi un po' di fatti tuoi. Senti, allora, la prima cosa è, era consapevole questa tua capacità di sopravvivere ai colloqui oppure era una cosa che, diciamo, andavi un po' a tentoni in base a quello che ti capitava davanti? No, consapevolezza no, io ero molto motivata, quindi ci provavo con i mezzi che ho, che non sono stati brillanti, comunque è possibile. Senti, visto che tra l'altro il tuo racconto finisce con un mi faranno sapere, ci posso sperare, ti domandavi e domandavi a me o a tutti, facci sapere com'è andata. Non è andata bene. Non è andata. Ho scelto un'altra persona, no, assolutamente. Ma nel senso che eravate rimaste in due? Non lo so, so che la selezione sì, stava andando avanti, vedevano altre persone. Ho ricontattato l'agenzia e mi hanno detto che hanno scelto un'altra persona. A quando risale, scusami, il racconto che ci hai mandato? Quindi è questo episodio, quindi? A settembre. Ok. Settembre dell'anno scorso. Da quant'è che stai cercando lavoro? Io sono disoccupata da un paio di mesi, quindi in quel momento stavo ancora lavorando. Ah, vabbè, ma un paio di mesi di disoccupazione è vacanza più che altro. Sì, sì, infatti è stata una bellissima vacanza finora. Scusami, mi ricordi quanti anni hai, Laura, scusami? 31. E hai una figlia di? 2 anni e mezzo. E tu sei laureata? Sei? No. No. Ho fatto liceo scientifico. Ho solo esperienza sul campo. E quindi che tipo di lavoro hai fatto fino ad oggi? Ne ho fatti tanti, diversi. L'esperienza più lunga è in amministrazione del personale. Per un'azienda di? Per una cooperativa, l'ho fatta per 4-5 anni, poi ho cambiato lavoro, non mi sono trovata bene, adesso sono alla ricerca. Senti, e dov'è che l'hai imparato questo inglese? Cioè, imparato, nel senso, dove hai appreso le nozioni che conosci? L'inglese? Sì. A scuola, malissimo, a scuola comunque. Quindi al liceo? Sì, sì, al liceo, figurati. Ma e poi non hai mai fatto quei corsi che vanno tanto di moda, che impari l'inglese con dei metodi strani, che vendono con i quotidiani, roba del genere, no? No, assolutamente, forse avrei dovuto. No, io te lo dico perché ho la sensazione che in realtà quei corsi lì tra 10 anni non serviranno più, perché più o meno le persone che sono su internet guardano le cose in inglese o ascoltano le canzoni in inglese, sì. Quindi è una mia sensazione, magari è sbagliata, però di solito questi corsi credo che, per quanto riguarda l'inglese soprattutto, non serviranno più. Tu invece niente, proprio liscia sei andata. No, io figurati, io non parlo inglese da quando mi sono diplomata. Ti parlo del 99, quindi proprio ignorante sono andata. Senti, chi era la persona a casa che invece si ricordava il numero civico? Il mio compagno, che è la mia ancora di salvezza. Lo dici come se fosse una sorta di angelo custode? Sì, anche perché quando siamo all'estero è lui che parla in inglese e nelle altre lingue anche. Da quant'è che siete sposati? Scusami, che state insieme? 7 anni. Da 7 anni vivete nel peccato, mi sembra di capire, perché avete anche una figlia di un anno. Sì. Due anni. Senti, quindi per il resto tutto bene, perché ho saputo, mi dicevano prima di là dalla regia, che c'è una buona notizia in arrivo, che non è che sei incinta ancora, ma? No, ma domani mattina ho un colloquio. Oh, mi hanno contattato poco fa. Di che cosa? È sempre la stessa mansione. Che è per qua di Modena, e quindi benissimo. Scusami, la mansione sarebbe, perdonami, sempre impiegata sull'amministrativa personale. Amministrazione personale, sì. C'è bisogno di sapere dell'inglese? Non lo so, spero di no. Ma tu sei proprio kamikaze, Laura, cioè tu vai dritta. No, io nel mio curriculum ho specificato che il mio inglese è scolastico, e chi seleziona il personale lo sa che scolastico vuol dire quasi niente, cioè, praticamente, se no sarebbe... Nel senso che sai dire my name is Laura? Sì, figurati, neanche. Cioè, ad esempio, di lavoro, no? L'inglese per il lavoro, non... no. Ma io credo che se leggessi un'email in inglese riuscirei a capirla. Ah, okay. Poi, certo, parlare con la mega direttrice che viene dagli Stati Uniti... Ma aspetta, però tu dici, se dovessi leggere una mail in inglese, credo che saprei, perché non hai mai letto una mail in inglese? Questo silenzio, questo silenzio, Laura, no, mi lavoro preoccupa. No, sul lavoro no, sul lavoro no. Per prenotare vacanze? Sì, tipo, I'd like to book a room for two. Sì, sì, sì. Okay. In inglese sì, scusami, per iscritto sì. Ok. Per parlare che mi pianto. Sono Senti, buona. Laura, per piacere, domani facci... A che ora ce l'hai? Alle 9. Del mattino? Sì. Va bene. Facci, in un modo o nell'altro facci sapere, per piacere. Scrivicelo su Facebook. Tu hai Facebook, giusto? Sì, sì. Frequenti, perfetto. Allora, Matteo Caccio, io sono qui e ci scrivi com'è andata. Va bene, senz'altro. Laura, grazie del racconto, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. In today's lesson, we're going to talk all about saying hello and goodbye. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24, radio24.it, trovate anche oggi l'illustrazione che racconta la storia del racconto di Laura. L'illustrazione di oggi l'ha fatta Alberto Guzzi, che è un ragazzo giovane, come tutti i suoi compagni dello IED, però lui mi sembra più giovane degli altri, secondo me, proprio giovane giovane. C'è una ragazza con i capelli lunghi che sta facendo un colloquio di lavoro e dietro c'è un qualcosa che c'entra col petrolio, credo che sia un cartello che riguarda una multinazionale. Sembra molto molto giovane Alberto da come ha fatto questo disegno. Andate a vederlo, è sempre sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di radio24.it. 349-238-6666. Oggi si parla di piccoli consigli per sopravvivere. Qualsiasi sia la categoria a cui appartenete e qualsiasi sia la categoria in cui siete degli esperti per la sopravvivenza, 349-238-6666. All'università, ad esempio, farsi amici quelli della prima fila, anche se sono antipatici, in tempo di esami sono i migliori. E poi, quando i miei bambini fanno i capricci, gli intimo: piangi dai. Loro per capriccio smettono di piangere. Questo mi ricorda un video magnifico che mi hanno fatto vedere su YouTube, in cui c'è un bambino che deve andare in un posto e il padre gli dice: andiamo a piedi. E lui vuole andare in macchina e il padre gli ripete: andiamo. Lui: no, andiamo. No, andiamo. No, andiamo. No. Poi il padre gli dice sì e lui dice sì e va a piedi. E poi per la pace familiare, sono in assoluto i miei preferiti. Per la pace familiare, mai contraddire la moglie. Un po' di pazienza, e lo farà lei, da sola, Antonio. Ma questo che non sia firmato: quando mia moglie si sveglia e non alza subito la tapparella, è meglio girarle lontano per qualche ora. Ma perché? Non capisco il perché. Cioè, perché se alza la tapparella è perché ha voglia di vedere il sole, se c'è ovunque tu abiti, e quindi è più facilmente trattabile? Oh, non capisco. Oppure perché vorrebbe che fosse ancora notte? Non capisco. Sì, ho capito che le gira storto, però al lavoro e nella vita dico sempre di sì, poi rifletto e solo dopo agisco per il meglio. Ripeto, 349-238-6666, piccolo manuale per la sopravvivenza. Ma non potevo non fare una cosa che potete fare anche voi, banalmente: andare su internet e cercare manuale di sopravvivenza. Se lo fate su Google, vi escono una serie di manuali, per lo più americani, di Marines o robe del genere, con delle regole per la sopravvivenza. Ce n'è uno in particolar modo, però, che elenca una serie di cose che sono... sapete qual è il problema dei manuali di sopravvivenza? È che si prendono troppo sul serio. Eccolo qua. Regole di base per la sopravvivenza. Dunque, la cosa che c'è da sapere prima di cominciare è che qui non si sta scherzando, ragazzi. Cioè, qui quando si parla di sopravvivenza, quello che ha stilato questo manuale ci ha fatto capire. E ti ringrazio per questa base, Paolino. Ti ringrazio perché non è una base qualunque, è una roba da dove l'abbiamo presa questa. Questa è un po' in stile con la sigla di oggi, insomma. Ok. Allora, vi leggo l'intro di questo manuale di sopravvivenza, che è una trentina di pagine che non vi leggerò tutte. Magari facciamo proprio un podcast speciale, eh? Magari anche no. La sopravvivenza è il sapersi adattare ad ogni luogo e in qualsiasi situazione. Il saper vivere senza comodità e con delle difficoltà da superare. L'avventura è la sopravvivenza volontaria. È un'impresa più o meno pericolosa che attrae con il fascino del rischio che comporta, ci dice l'autore. E avventura, attenzione, anche una gita in montagna. Ma servirà una maggiore conoscenza delle tecniche se decidiamo di non portare la tenda o di non portare i panini e mangiare erbe, radici o piccoli animali. Ma perché? Ma perché se posso farmi un panino? Attenzione, 5 norme per la sopravvivenza. Queste sono proprio le 5 regole in assoluto. Quindi se non volete sentire il resto, appuntatevi queste. Per sopravvivere, in ordine di importanza, al quinto posto è il cibo. Al quarto posto è l'acqua. Al terzo posto è la capacità di segnalazione. Ma come l'acqua non è più importante del... Al secondo posto è il riparo. Al primo posto la volontà. I quattro mai, questi sono. Io ho tirato giù giusto delle cose da questo manuale di sopravvivenza. Però ci sono quattro mai, cioè quattro cose da non fare mai se volete sopravvivere. I quattro mai sono: al quarto posto, mai arrendersi, tentare ancora. Tre, mai pensare di aver fatto tutto il possibile, ce n'è ancora. Due, mai disperare. Uno, mai rinunciare alla lotta, che è la stessa roba. Cioè, è la stessa roba detta in quattro modi diversi. E poi ancora, regole base per la sopravvivenza. Si può allungare oltre oggi, leggerei solo tutto il giorno sta roba. 1. Mai svolgere attività turistico o sportiva da soli. 2. Vestirsi in modo appropriato alle condizioni che si devono affrontare. 3. Portare almeno un equipaggiamento base, coltello, fiammiferi e fischietto. Se sei un arbitro però. 4. Riconoscere i propri limiti fisici e le capacità tecniche nell'affrontare certe imprese. 5. Conoscere almeno a grandi linee la zona dove si è diretti. 6. Portare carta e bussola. Questa è magnifica. 6. Portare carta e bussola e saperli usare. Grazie. 7. Comportarsi con prudenza, valutando i rischi. 8. Lasciare una specie di programma circa il proprio spostamento. A chi? A casa. Cioè, far sapere. Ok. 9. Rafforzare la volontà, avere fiducia in se stessi, non mollare mai. Amo, sempre lì siamo. Questo è esattamente quello che succede. Ne abbiamo parlato una volta. Come si chiama il film 123 ore, 120, 127 ore? Che lui lascia a casa tutto, il coltellino svizzero, e non avvisa nessuno su dove si trova. Bisogna ricordarsi che, scusate, ancora qualcosa e poi veramente, poi la smetto. Gli indumenti puliti hanno maggiore potere isolante termico di quelli sporchi. Nel caso di uno sforzo fisico bisogna alleggerire il vestiario, grazie. È importantissimo impedire che i vestiti si bagnino di sudore. Il sudore limita anche il potere isolante degli abiti. È che gli piace ripetere uno stesso concetto. È efficace un giornale o un sacchetto di plastica da tenere sotto la camicia per tenere il corpo più caldo e isolato. E poi c'era un capitolo, ci sono molte cose. C'era un capitolo dedicato al fuoco. Prima di arrivare, scusa Tiziano, l'ultima roba. Il capitolo dedicato al fuoco. Vi dico solo quanti fuochi esistono in natura che si possono fare. Ma voi che siete scout lo saprete. Fuoco a piramide, fuoco a trincea, fuoco a croce, fuoco a polinesiano, fuoco del boscaiolo, fuoco a riflettore, fuoco in scarpata, fuoco del pastore, fuoco del pioniere. E poi concludiamo con le parole di questo che Tiziano conosceva, in quanto è il padre dei manuali della sopravvivenza, giusto più o meno? Che si chiama Palkiewicz, giusto? Deve essere polacco. Palkiewicz dice così: le doti necessarie per sopravvivere sono innumerevoli. Esse variano dalla capacità di adattamento alla rapidità e sicurezza nella decisione, dall'ostinazione all'autocontrollo, dall'efficienza fisica e psichica all'insaziabile desiderio di continuare a vivere comunque, nonostante una situazione di disagio, dall'allenamento ad una vita disagevole all'accettazione di situazioni difficili, dall'abilità manuale nel procurarsi il cibo o costruire un riparo allo spirito di adattamento nell'alimentazione. Tutto questo è importante, ma una sola è la dote indispensabile per sopravvivere: la volontà. Mangerò per almeno una settimana dopo un pasto come questo. Insetti così contengono più proteine del manzo o del pesce. È un cibo perfetto da sopravvivenza. Come si chiama sto tizio? Si chiama Bear Grylls. L'avrete visto se avete Sky. L'ultimo sopravvissuto. Niente, è un folle che si fa paracadutare in luoghi deserti. Però sempre con un operatore accanto, quindi c'è qualcosa di strano. 349-238-6666. Io lavoro fuori tutto l'inverno, quindi questo è un consiglio per chi sta all'aperto. Quando fa molto freddo, tengo il pigiama di cotone sotto i pantaloni. Si sta da Dio, Alessandro. E poi, il mio compagno di tesi ha un colloquio di lavoro in un grande studio di architettura francese, mente spudoratamente dicendo che sa usare un software 3D. Lo prendono, inizia dopo l'estate, passa l'estate a studiare il software, ora, 3 o 4 anni dopo, ha uno studio di architettura e immagini 3D a Parigi che promette proprio bene. Un genio, Asnago e Vender da Milano. Grazie a quelli che hanno reso possibile anche il programma di oggi, che sono stati Tiziano Bonini, come al solito, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Laura e parlava di sopravvivenza. Quella di domani è la storia di Luisa e parla di vita da gatti. Nigel naturalmente si nasconde. Esce la notte mentre io dormo. Mangia, fa quello che deve fare e poi si nasconde di nuovo. Questo per alcuni giorni, ma gli amici mi tranquillizzano, mi dicono che ci vorrà tempo perché un gatto si senta a proprio agio. Qualche giorno dopo vado a dormire stanca, stremata da una giornata gelida e da un bicchiere di vino di troppo. Dormo sodo e forse russo, anzi, russo talmente forte da svegliarmi e accorgermi che il suono che sentivo non era il mio. Erano le fusa di Nigel, che aveva deciso che avevo passato l'esame e si fidava.